Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. E siamo arrivati all'epilogo del nostro romanzo. Pierre ha sposato Natasha, è morto il vecchio conte Rostov e Nikolai ha ereditato tutti i debiti del padre. E noi l'abbiamo lasciato dunque, con la madre e Sonia a carico, in una situazione economica disastrosa. Il colpo di scena che inaugura la parte che dobbiamo ancora leggere è il matrimonio con la principessina Maria, che salva Nikolai da questa situazione economica veramente incresciosa. E lo ritroviamo con la moglie, la madre e Sonia stabilito a Lisiagori. In 4 anni, senza vendere i possessi della moglie, Nikolai pagò il resto dei debiti e, avendo avuto una piccola eredità per la morte di una cugina, pagò anche il suo debito a Pierre. Dopo altri 3 anni, nel 1820, Nikolai aveva rimesso ordine così bene nei suoi affari che aveva comperato anche una piccola tenuta presso Lisiagori ed era in trattative per riscattare la tenuta paterna di Otradnoje, che era il suo sogno favorito. Avendo cominciato a occuparsi per necessità dell'azienda domestica, ben presto egli ci si era appassionato talmente che essa divenne la sua occupazione preferita e quasi esclusiva. Nikolai era un proprietario semplice. Non amava le novità, specialmente quelle inglesi, che erano venute di moda allora. Rideva dei trattati teorici di agricoltura, non amava gli allevamenti, le produzioni costose, la semina di grani pregiati e in genere non si occupava di un ramo singolo della sua azienda, ma aveva sempre davanti agli occhi solo la proprietà e non una sua singola parte. E nella proprietà l'oggetto principale non era per lui l'azoto o l'ossigeno che si trovava nella terra o nell'aria, non uno speciale aratro o un certo concime, ma quello strumento principale per mezzo del quale agiscono l'azoto e l'ossigeno e l'aratro e il concime, e cioè il lavoratore, il contadino. Da principio, sforzandosi di comprendere i suoi bisogni e ciò che gli pareva bene o male, fingeva di dare ordini e disposizioni, ma in sostanza non faceva che imparare dai contadini metodi ed espressioni e giudizi su ciò che era bene e ciò che era male. E soltanto quando ebbe capito i gusti e le aspirazioni del contadino e imparato a parlare il suo linguaggio e afferrato il senso segreto dei suoi discorsi, quando si fu sentito affratellato con lui, soltanto allora cominciò a dirigerlo arditamente, cioè ad esercitare nei riguardi dei contadini l'ufficio di cui essi pretendevano da lui l'esercizio. E l'amministrazione di Nikolai dava i più brillanti risultati. Nell'ambiente nobiliare della provincia Nikolai era stimato, ma non amato. Egli non si occupava degli interessi della nobiltà e per questo alcuni lo ritenevano superbo, altri stupido. D'estate, dalle semine primaverili fino alla raccolta, tutto il suo tempo trascorreva nelle occupazioni agricole. In autunno si dava alla caccia, andandosene per un mese o due in giro con i suoi cacciatori. L'inverno visitava le altre proprietà o si dava alle letture. A esclusione di qualche viaggio d'affari, la maggior parte dell'inverno la passava a casa, stringendosi alla famiglia ed entrando nei più minuti particolari dei rapporti fra la madre e i figli. Con la moglie aveva un'intimità sempre maggiore, scoprendo ogni giorno in lei nuovi tesori spirituali. Sonia, fin dal momento del matrimonio di Nikolai, viveva in casa sua. Anche prima del suo matrimonio, Nikolai, accusando sé e lodando lei, aveva raccontato a sua moglie tutto ciò che era accaduto fra lui e Sonia. E l'aveva pregata d'essere buona e affettuosa con la cugina. La contessa Maria sentiva pienamente la colpa di suo marito, sentiva anche la propria davanti a Sonia, pensava che il suo patrimonio aveva influito sulla scelta di Nikolai e non poteva rimproverare nulla a Sonia, anzi desiderava volerle bene. Però non solo non l'amava, ma spesso si trovava nell'animo dei sentimenti cattivi verso di lei e non poteva vincerli. Una volta si mise a discorrere con la sua amica Natasha di Sonia e della propria ingiustizia verso di lei. «Sai», disse Natasha, «ecco, tu hai letto molto il Vangelo. Lì c'è un passo che parla proprio di Sonia». «Come?» domandò sorpresa la contessa Maria. A chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto. Ti ricordi? Lei è quella che non ha. Perché? Non lo so. Forse in lei non esiste l'egoismo, non lo so, ma tutto le viene tolto. E infatti tutto le è stato tolto. A volte mi fa una pena tremenda. Prima desideravo molto che Nicolà la sposasse, ma era sempre come se avessi il presentimento che ciò non sarebbe accaduto. È un fiore sterile, sai, come ne hanno le piante di fragole. A volte mi fa pena, ma a volte penso che non deve sentirlo come lo sentiremmo noi. E benché la contessa Maria spiegasse a Natascia che le parole del Vangelo si dovevano interpretare diversamente, tuttavia, guardando Sonia, era d'accordo con la spiegazione data da Natascia. Difatti pareva che Sonia non soffrisse nella sua posizione e si fosse perfettamente rassegnata al suo stato di fiore sterile. Pareva che non amasse tanto gli individui quanto la famiglia presa nel suo insieme. Come un gatto, era attaccata non alle persone, ma alla casa. Assisteva alla vecchia contessa, carezzava e viziava i bambini, era sempre pronta a rendere quei piccoli servizi di cui era capace, ma tutto ciò era accettato involontariamente, con troppo debole gratitudine. Nel 1820 Natascia aveva già 3 figlie e 1 figlio, che aveva molto desiderato e che ora allattava lei stessa. Si era fatta più grassa e più lunga, sicché sarebbe stato difficile riconoscere in quella robusta mamma la sottile e irrequieta Natascia di una volta. I tratti del suo volto s'erano definiti e avevano un'espressione di tranquilla dolcezza e limpidità. Nel suo volto non c'era, come prima, quell'incessante, vivo fuoco di animazione che costituiva il suo incanto. Ora spesso si vedeva solo il suo volto e il suo corpo, ma l'anima non si vedeva. Si vedeva solo una forte, bella, feconda femmina. Assai raramente ora si accendeva in lei il fuoco di un tempo, ma in quei momenti ella diventava anche più seducente di prima. Da che era sposata, Natascia viveva col marito a Mosca, a Pietroburgo, nella loro tenuta presso Mosca o da sua madre, cioè da Nicolai. In società la giovane contessa Bezukhova si vedeva poco, e coloro che la vedevano ne erano poco contenti. Non era né graziosa né amabile. Non che Natascia amasse la solitudine, non sapeva se l'amasse o no, le pareva anzi di non amarla, ma poiché era sempre incinta, o partoriva o allattava i bambini e partecipava ad ogni momento della vita di suo marito, non poteva soddisfare a queste esigenze se non col rinunziare al mondo. Tutti coloro che avevano conosciuto Natascia prima del suo matrimonio si meravigliavano del cambiamento avvenuto in lei come di una cosa straordinaria. Solo la vecchia contessa, con il suo istinto materno, aveva capito che tutti gli slanci di Natascia derivavano unicamente dal suo bisogno di avere una famiglia, un marito, come ella, più sul serio che per scherzo, proclamava ad alta voce ad Otradnoje. La madre si meravigliava della meraviglia della gente che non capiva Natascia e ripeteva di avere sempre saputo che Natascia sarebbe stata una moglie e una madre esemplare. Natascia s'era lasciata andare, a tal punto che i suoi vestiti, le sue pettinature, le parole a casaccio che diceva, la sua gelosia, era gelosa di Sonia, della governante, di ogni donna bella o brutta, erano l'oggetto abituale degli scherzi di tutti i suoi. L'opinione comune era che Pierre fosse sotto la pantofola di sua moglie, e difatti era così. In compenso, Pierre aveva pieno diritto in casa di disporre come voleva non soltanto di sé, ma di tutta la famiglia. Natascia, in casa, si considerava una schiava del marito. Tutta la casa era diretta dai pretesi ordini, cioè dai desideri di Pierre, che Natascia si sforzava di indovinare. Il modo di vivere, il luogo dove stare, le conoscenze, le relazioni, le occupazioni di Natascia, l'educazione dei bambini, non soltanto tutto ciò si faceva secondo la volontà espressa di Pierre, ma Natascia indovinava esattamente l'essenza dei desideri di Pierre e, una volta indovinatala, si atteneva strettamente a quanto era stato scelto una volta per tutte. Quando Pierre voleva poi abbandonare in qualche modo un suo desiderio, essa lottava contro di lui con le sue stesse armi. Dopo 7 anni di matrimonio, Pierre aveva una lieta e ferma coscienza di non essere un uomo cattivo e sentiva ciò perché si vedeva riflesso in sua moglie. In sé sentiva tutto il bene e tutto il male confuso e offuscato l'uno dall'altro. ma nella moglie vedeva riflesso soltanto il bene vero. Ciò che non era del tutto un bene era eliminato. E questo riflesso s'era creato non per la via del pensiero logico, ma in un altro modo, misterioso e immediato. Era la vigilia del San Nicola d'inverno, il 5 dicembre 1820. Quell'anno Natascia, coi bambini e il marito, era ospite del fratello dal principio dell'autunno. Pierre era a Pietroburgo, dove era andato per i suoi affari particolari, come diceva, per 20 giorni, e dove invece ormai si trovava da quasi 2 mesi. Lo aspettavano da un momento all'altro. Il 5 dicembre, oltre la famiglia Bezukhov, era ospite dei Rostov anche un vecchio amico di Nikolai, il generale a riposo Vassili Fyodorovich Denisov. L'arrivo di Pierre era un fatto lieto e importante, e come tale si rifletté su tutti. I domestici, i più sicuri giudici dei padroni, perché non giudicano dai discorsi né dall'espressione dei sentimenti, ma dalle azioni e dal modo di vivere, erano contenti dell'arrivo di Pierre perché sapevano che, arrivando lui, il conte avrebbe smesso di occuparsi ogni giorno del maneggio dell'azienda e sarebbe stato più allegro e più buono, e anche perché tutti avrebbero ricevuto ricchi regali per la festa. I bambini e le governanti erano contenti dell'arrivo di Bezukhov perché nessuno come Pierre sapeva farli partecipare alla vita comune. Egli solo sapeva suonare sul clavicembalo quella scozzese, il suo unico pezzo, con la quale si potevano ballare, come diceva lui, tutti i balli possibili. Nikolenka, che era ora un ragazzo di 15 anni, magro, coi capelli biondi e ricciuti e con dei magnifici occhi, intelligente, era contento perché lo zio Pierre, come lo chiamava, era l'oggetto della sua ammirazione e del suo affetto appassionato. Dalle parole e dai discorsi sentiti su suo padre e Natascia, dall'emozione con la quale Pierre ne parlava, dalla tenerezza e riguardosa venerazione con cui Natascia lo ricordava, il ragazzo, che allora cominciava appena a capire qualcosa dell'amore, s'era fatto il convincimento che suo padre aveva amato Natascia e, morendo, l'aveva affidata al suo amico. Questo padre, che il ragazzo non ricordava, gli appariva come una divinità che era impossibile immaginare e a cui non poteva pensare che col cuore trepidante e con lacrime di tenerezza e di entusiasmo. E il ragazzo era felice per l'arrivo di Pierre. Gli ospiti erano contenti dell'arrivo di Pierre perché era un uomo che sempre animava e teneva affiatata qualunque compagnia. Gli adulti di casa, senza parlare di sua moglie, erano contenti di rivedere un amico la cui presenza dava allegria e tranquillità. Le vecchie donne erano contente per i regali che egli portava e principalmente perché Natascia tornava ad animarsi. Pierre intuiva questi diversi punti di vista dei diversi mondi di fronte a lui e si affrettava a dare a ciascuno quello che attendeva. La contessa Rostova aveva già più di 60 anni. Era tutta canuta e portava una cuffia che le circondava il viso con un merletto. Aveva il viso grinzoso, il labbro di sopra era rientrato e gli occhi erano appannati. Dopo la morte del figlio e del marito, che s'erano seguite così rapidamente l'una all'altra, ella si sentiva un essere dimenticato per caso in questo mondo, senza più senso né scopo. Mangiava, beveva, dormiva, vegliava, ma non viveva. La vita non le dava nessuna impressione. Non chiedeva nulla alla vita se non la quiete, e questa quiete poteva trovarla solo nella morte. Ma finché non veniva la morte, le toccava vivere, cioè adoperare le sue forze vitali. Doveva mangiare, dormire, pensare, piangere, parlare, lavorare, irritarsi, eccetera, soltanto perché aveva uno stomaco, un cervello, dei muscoli, dei nervi, un fegato. Tutto ciò ella lo faceva senza esservi provocata da nulla di esteriore, non come le persone che sono nella piena forza della vita, quando lo scopo al quale tendono fa sì che non si veda l'altro scopo a cui sono indirizzate le loro forze. Questo stato della vecchia era capito da tutti i familiari, benché nessuno mai ne parlasse, e tutti facevano ogni sforzo possibile per soddisfare quei suoi desideri. Soltanto in qualche sguardo o in qualche triste mezzo sorriso che si scambiavano Nicolai, Pierre, Natascia e la contessa Maria, era espressa questa generale comprensione del suo stato. Ma questi sguardi esprimevano anche un'altra cosa. Dicevano che ella aveva già fatta la sua parte nella vita, che non era tutta in ciò che ora si vedeva di lei, che tutti sarebbero diventati come lei e che era una gioia obbedirle, sacrificarsi un poco a quell'essere una volta così amato, una volta pieno di vita come loro e ora così misero. Memento mori, dicevano quegli sguardi. Soltanto le persone assolutamente cattive e sciocche e i bambini piccoli, fra tutta la gente di casa, non capivano queste cose e la evitavano. All'ora del tè, intorno alla tavola tonda dove era il samovar, presso al quale sedeva Sonia, si riunivano tutti i membri adulti della famiglia. I ragazzi, i precettori e le governanti avevano già preso il tè e le loro voci si udivano nella vicina stanza dei divani. Pierre stava seduto fra sua moglie e la vecchia contessa e le raccontava quelle cose che sapeva potevano interessarla. Parlava di fatti e di persone che una volta formavano il suo ambiente. Un ambiente allora attivo e vivace, ma ora quelle persone, per la maggior parte disperse per il mondo, finivano come lei di vivere la loro vita, raccogliendo le ultime spighe di ciò che avevano seminato. Ma essi, questi coetanei, sembravano alla vecchia contessa il solo mondo reale. Dall'animazione di Pierre, Natascia vedeva che il suo viaggio era stato interessante, che aveva voglia di raccontare molte cose, ma non osava parlare davanti alla contessa. Gli uomini andarono nello studio e Nikolenka Balkonski, senza che lo zio se ne accorgesse, vi andò anche lui e si mise a sedere nell'ombra, presso la finestra accanto alla scrivania. «Ecco di che si tratta», cominciò Pierre. «La situazione a Pietroburgo è questa. L'imperatore non si interessa di nulla. È tutto preso dal misticismo. Cerca soltanto la tranquillità. E la tranquillità gliela possono dare solamente quegli uomini sans foi ni loi che sentenziano e soffocano tutto senza appello. E così tutto va in perdizione. Nei tribunali si ruba. Nell'esercito non c'è che il bastone, i passi di parata e le colonie militari. Si tortura il popolo. L'istruzione è soffocata. Tutto quello che è giovane e puro viene rovinato. Tutti vedono che così non si può andare avanti. La corda è troppo tesa e necessariamente si romperà», disse Pierre. In quel momento Nicolai si accorse della presenza del nipote. Si fece scuro in viso e mosse verso di lui. «Che stai a fare qui?» «Perché lascialo», disse Pierre prendendo per mano Nikolenka, e proseguì: «Persone indipendenti, libere come voi e me, non ce ne sono più. Io dico, allargate il cerchio della società. La parola d'ordine sia non soltanto la virtù, all'indipendenza e l'attività». Nicolai, lasciato il nipote, tutto irritato cambiò di posto a una poltrona. Vi si mise a sedere e, ascoltando Pierre, tossicchiava con piglio scontento e si accigliava sempre di più. «Ma a che scopo questa attività?» scattò a dire. «E in che relazioni vi metterete col governo?» «In che relazioni? In quelle di persone che lo vogliono aiutare. La società può anche non essere segreta, se il governo l'ammette. Non solamente non è ostile al governo, ma è una società di veri conservatori, una società di gentleman, nel pieno significato del termine. Sì, ma è una società segreta, e per conseguenza ostile e nociva, che può fare solo del male. Perché? È l'alleanza dei buoni, è l'amore, è l'aiuto reciproco, è ciò che ha predicato Cristo sulla croce». Natascia, entrata nella stanza a metà del discorso, guardò tutta lieta il marito. Non si rallegrava di ciò che egli diceva. Queste cose, anzi, non la interessavano perché le parevano straordinariamente semplici e credeva di saperle già da un pezzo. Credeva così perché conosceva la fonte d'onde scaturivano, tutta l'anima di Pierre. Ma si rallegrava vedendo la sua fisionomia animata, piena d'entusiasmo. Con gioia ed entusiasmo anche maggiore guardava Pierre il fanciullo dimenticato da tutti, col suo esile collo che usciva dal collettino rovesciato. Ogni parola di Pierre infiammava il suo cuore e con un movimento nervoso delle dita, senza accorgersene, egli spezzava la ceralacca e le penne che gli cadevano sotto mano sulla scrivania dello zio. Pierre sorrise. Natascia fece una risata, ma Nicolai aggrottò ancora di più le sopracciglia e si mise a dimostrare a Pierre che nessuna rivoluzione era da prevedersi e che tutto il pericolo del quale egli aveva parlato esisteva soltanto nella sua immaginazione. Pierre dimostrava il contrario. E siccome le sue capacità mentali erano più forti e più duttili, Nicolai si sentì messo con le spalle al muro. Ciò lo irritò ancora di più, giacché in fondo all'anima, non per ragionamento, ma per qualcosa di più forte del ragionamento, sentiva che la sua opinione era indubbiamente giusta. «Ecco quello che ti dico», rispose, alzandosi e mettendo da un canto la pipa con gesti nervosi e poi finalmente gettandola via. «Io non te lo posso dimostrare». Tu dici che da noi tutto va male e che ci sarà una rivoluzione. Io non la vedo. Tu sei il mio migliore amico, lo sai. Ma se formate una società segreta e vi opponete al governo, qualunque esso sia, io so che il mio dovere è di obbedirgli. E se in questo momento Arakcheyev mi ordinasse di andare contro di voi col mio squadrone e di sciabolarvi, non esiterei un momento e ci andrei. E giudicami come vuoi. Dopo queste parole ci fu un silenzio imbarazzante. Natascia fu la prima a parlare per difendere il marito e attaccare il fratello. La sua difesa fu debole e impacciata, ma lo scopo fu raggiunto. Il discorso fu di nuovo ripreso e non più in quel tono ostile nel quale erano state dette le ultime parole di Nicolai. Quando tutti si alzarono per andare a cena, Nikolen Kabalkonski si avvicinò a Pierre, pallido, con gli occhi lucidi e sfavillanti. «Zio Pierre, voi... no, se papà fosse vivo... «Sarebbe d'accordo con voi, vero?» domandò. Pierre d'un tratto capì quale forte, complicato, personale, indipendente lavorio del sentimento e del pensiero doveva essersi prodotto in quel ragazzo durante la loro conversazione, e ricordandosi tutto ciò che aveva detto, gli rincrebbe che il ragazzo lo avesse ascoltato. Eppure bisognava rispondergli. «Io penso di sì», disse a malincuore, e uscì dallo studio. Il ragazzo chinò il capo, e solo allora parve accorgersi di ciò che aveva fatto sulla tavola. Arrossì e si avvicinò a Nicolai. «Zio, perdonatemi, io l'ho fatto senza volere», disse, mostrando la ceralacca e le penne spezzate. Nicolai trasalì irritato. «Bene, bene», disse, gettando sotto la tavola i pezzi della ceralacca e delle penne, e trattenendo con visibile fatica la collera che gli bolliva dentro, si voltò dall'altra parte. «Del resto... non era il caso che tu rimanessi qui». Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.